Così dice il Signore: eccomi a far destare contro Babilonia e contro gli abitanti della Caldea uno spirito di distruzione. Invierò contro Babilonia spulatori e la spuleranno e svuoteranno il suo territorio. Saranno contro di essa da ogni parte nel giorno della sventura. Contro chi tende, tenda il tiratore il suo arco, e contro chi indossa la propria corazza. Non abbiate compassione per i suoi giovani. Sterminate tutto il suo esercito. Cadano feriti nel paese dei Caldei e trafitti nelle sue strade, ma non siano resi vedovi Israele e Giuda del loro Dio, del Signore degli eserciti, poiché il loro paese è pieno di delitto contro il Santo d'Israele. Fuggite di mezzo a Babilonia e salvi ognuno se stesso. Non vogliate perire nelle loro iniquità, poiché è tempo di vendetta per il Signore. Egli ripaga ad essa quanto s'è meritata. Vaso d'oro era Babilonia in mano del Signore, che inebriava tutta la terra. Del suo vino bevevano le nazioni. Per questo esse impazzirono. Improvvisamente è caduta Babilonia ed è stata spezzata, ululate sopra di essa. Prendete balsamo per le sue ferite, forse guarirà. Abbiamo curato Babilonia, ma non è guarita. Lasciatela. Torniamo ciascuno al proprio paese, giacché tocca il cielo il suo giudizio e si eleva fino alle nubi. Il Signore ha promulgato le nostre giustizie. Venite e raccontiamo in Sion l'opera del Signore, Dio nostro. Affilate le frecce, riempite le faretre. Ha risvegliato il Signore lo spirito dei re dei Medi, perché contro Babilonia è il suo piano per distruggerla. Sì, questa è la vendetta del Signore, la vendetta del suo tempio. Contro le mura di Babilonia elevate un vessillo, rafforzate la custodia, stabilite le sentinelle, preparate agguati, poiché ha progettato il Signore ed anche eseguito ciò che ha predetto contro gli abitanti di Babilonia. Tu che abiti presso acque abbondanti, o ricca di tesori, è arrivata la tua fine, il tempo del tuo taglio. Ha giurato il Signore degli eserciti per se stesso: ti riempio d'uomini come locuste, che canteranno contro di te il grido di trionfo. Egli ha fatto la terra con la sua potenza, ha stabilito l'universo con la sua sapienza e con la sua intelligenza ha steso i cieli. Quando emette la sua voce c'è tumulto d'acque in cielo e adduce le nubi dall'estremità della terra. Lampi per la pioggia egli produce ed estrae il vento dai suoi ripostigli. Si stupisce ogni uomo perché non comprende. Arrossisce ogni orefice per l'idolo, perché menzogna son le sue fusioni. Non hanno spirito. Vanità sono, opera da buffoni. Nel tempo del loro castigo periranno. Non come essi è la porzione di Giacobbe, perché creatore di tutto è lui, e Israele lo scettro della sua eredità. Signore degli eserciti è il suo nome. un martello tu fosti per me, strumento di guerra. Io martellavo con te le nazioni e distruggevo con te i regni. Io martellavo con te cavallo e cavaliere. Io martellavo con te carro e cocchiere. Io martellavo con te uomo e donna, io martellavo con te vecchio e giovane, io martellavo con te giovane e vergine, io martellavo con te il pastore e il suo gregge, io martellavo con te il contadino e i suoi buoi, io martellavo con te governatori e comandanti. Ma io ripagherò Babilonia e tutti gli abitanti della Caldea per tutto il male che hanno fatto contro Sion sotto i vostri occhi, oracolo del Signore. Eccomi a te, montagna della distruzione, oracolo del Signore, tu che distruggi ogni paese. Io ho posto le mie mani su di te, ti rotolerò dalle rocce e ti ridurrò una montagna d'incendio, sicché non prendano da te mattone d'angolo né pietra da fondazione, perché tu sarai rovine perpetue, oracolo del Signore. Elevate un vessillo nel paese, suonate la tromba tra le nazioni, santificate contro di essa le nazioni, convocate contro di essa i regni, Ararat, Minni e Askenaz. Stabilite contro di essa generali, spronate i cavalli come locuste setolose. Contro di essa preparate le nazioni, i re di Media, i suoi governatori e i suoi comandanti e tutti i paesi del suo dominio. Così tremerà il paese e si contorcerà, perché si son realizzati contro Babilonia i progetti del Signore di rendere il paese di Babilonia una devastazione senza abitanti. Rifiutano gli eroi di Babilonia di combattere, si ritirano nelle fortezze, è venuta meno la loro forza, son divenuti come donne. Hanno incendiato le sue abitazioni, sono state spezzate le sue sbarre. Corriere incontro al corriere corre, e nunzio incontro al nunzio, per annunziare al re di Babilonia che è stata presa la sua città da ogni parte, che i guadi sono occupati, e gli stagni bruciano nel fuoco, e gli uomini di guerra impazziscono. Sì, così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele. La figlia di Babilonia è come un'aia nel tempo della sua trebbiatura. Ancora un poco ed arriverà per essa il tempo della mietitura. Mi ha divorato. M'ha messo in rotta Nabucodonosor, re di Babilonia. M'ha ridotto un vaso vuoto. M'ha inghiottito come un coccodrillo, ha riempito il suo ventre con le mie dovizie, m'ha scacciato. Il mio strazio e la mia disgrazia siano su Babilonia, dice l'abitante di Sion, il mio sangue sugli abitanti della Caldea, dice Gerusalemme. Perciò così, dice il Signore, ecco, io difenderò la tua causa, io ti vendicherò. Farò prosciugare il suo mare e farò inaridire la sua sorgente. Sarà ridotta Babilonia a mucchi di pietre, abitazione di sciacalli, devastazione e fischio, senza abitante. Insieme come leoncelli ruggiscono, ringhiano come cuccioli di leoni. Hanno caldo? Preparerò loro una bevanda, li ubriacherò affinché facciano festa e poi dormano un sonno perpetuo, sicché non si risveglino più. Oracolo del Signore. Li farò scendere come agnelli al macello, come montoni insieme ai becchi. Come è stata presa Sesac e conquistata la gloria di tutta la terra, come è divenuta un luogo devastato Babilonia tra le nazioni. È giunto fino a Babilonia il mare con la fiumana delle sue onde l'ha ricoperta. Le sue città sono diventate una distruzione, terreno arido e steppa dove non abita più nessuno, né vi passa figlio d'uomo. Io castigherò Bel in Babilonia ed estrarrò ciò che ha ingoiato dalla sua bocca. Non affluiranno più ad esso le nazioni. Persino il muro di Babilonia è caduto. Esci di mezzo ad essa, o popolo mio, e salvi ognuno se stesso dall'ardore dell'ira del Signore. Non si turbi il vostro cuore e non temete per la notizia che è stata udita nel paese. Infatti un anno giunge una notizia e l'anno dopo un'altra notizia. Ci sarà violenza nel paese e dominatore contro dominatore. Perciò ecco, verranno giorni ed io castigherò gli idoli di Babilonia e tutto il suo territorio si vergognerà e tutti i suoi feriti cadranno in mezzo ad essa. Gioiranno su Babilonia cieli e terra e tutto ciò che è in essi, perché dal nord verranno contro di essa i devastatori. Oracolo del Signore. Anche Babilonia è destinata a cadere a causa dei feriti di Israele, come per Babilonia sono caduti i feriti di tutta la terra. O voi, sfuggiti alla spada, andate, non vi arrestate. Da lontano ricordatevi del Signore, e Gerusalemme torni alla vostra mente. Ci vergogniamo perché abbiamo udito l'oltraggio. L'onta copre il nostro volto, perché stranieri sono entrati nel santuario della casa del Signore. Perciò ecco che vengono giorni, oracolo del Signore, in cui io castigherò i suoi idoli, e per tutto il suo territorio gemerà il ferito. Quand'anche Babilonia salisse al cielo, e quand'anche rendesse inaccessibile l'altezza della sua fortificazione, da parte mia verranno devastatori contro di essa. Una voce straziante si ode da Babilonia, e un grande scempio dal paese dei Caldei, perché il Signore sta devastando Babilonia e fa sparire da essa il grande rumore. Tumultuano le loro onde come acque abbondanti, si trasforma in strepito la loro voce. Infatti è venuto contro di essa, contro Babilonia, un devastatore, e sono stati presi i suoi eroi, si sono spezzati i loro archi, perché Dio di retribuzione è il Signore. Ripaga completamente. Ubriacherò i suoi principi e i suoi sapienti, i suoi governatori, i suoi comandanti e i suoi eroi. Dormiranno un sonno perpetuo e non si desteranno più. Oracolo del Re, il cui nome è Signore degli eserciti. Così dice il Signore degli eserciti: le larghe mura di Babilonia saranno interamente smantellate, e le sue alte porte nel fuoco arderanno. Si affaticarono i popoli per nulla, e le nazioni, in favore del fuoco, si stancano. Questo è l'ordine che dette il profeta Geremia a Seraia, figlio di Neria, figlio di Masaia, quando questi andò con Sedecia, re di Giuda, in Babilonia, nell'anno quarto del suo regno. Seraia era capo degli alloggiamenti. Geremia aveva scritto tutta la sventura che sarebbe arrivata contro Babilonia in un solo rotolo. Tutte queste cose scritte contro Babilonia. Quindi Geremia disse a Seraia: quando arriverai a Babilonia, fa attenzione a leggere tutte queste parole. Dirai: tu, Signore, hai parlato contro questo luogo per distruggerlo, affinché non vi sia più in esso abitante dall'uomo al bestiame, perché dovrà essere un luogo devastato in perpetuo. Quando avrai terminato di leggere questo libro, legherai su di esso una pietra e lo getterai in mezzo all'Eufrate dicendo: così affonderà Babilonia e non si rialzerà più a causa della sventura che io sto per addurre contro di essa. Fin qui le parole di Geremia.